tradir. Appressa! Dunque, tu sei sua padre. Anch'io puniai vinti noi fummo. Morte in van cercai. Questa sisa ch'io vesto vi dica che il mio re la mia patria difeso. Nulla sorti a mostrarmi nemica, torno vado dei corti l'ardir. Al mio piede nella polve distesa, già quel re da più colpi trafitto, c'è l'amor della patria. Percossi da fato, oh!